Ricordo ancora la mia ingenuità, scorreva leggera nell'anima. Nessun problema, neanche un pensiero, soltanto il respiro e niente di più.